Camminavo in silenzio per vicoli oscuri, in silenzio mi guardavano passare vecchi muri. Portavo nel cuore le cose più belle del mio cielo, brillavano milioni di stelle. L'eco dei miei passi si perdeva lontano nel buio, una fontana singhiozzava piano piano, fuggendo i miei vent'anni e sorridendo alla luna. Cancellavo i ricordi e sognavo la fortuna. Cancellavo i ricordi e sognavo la fortuna. Tra le sue calde braccia, mentre il vento di luglio carezzava la mia faccia, ridendo il mio destino stringevo nelle mani. Ero un uomo felice, non pensavo a domani. Mentre verso il cielo cantavo una canzone, incontrai la mia ombra nella luce di un lampione. Mi disse: dove credi di andare, vecchio mio? Fuggi pure lontano, ma con te ci sarò sempre io. Dissi stupito: va via, non mi scocciare, è già tardi ed ho ancora tanta strada da fare. Lei rispose tranquilla: alla mia compagnia ti dovrai abituare, io non posso andare via. Lentamente io ripresi il cammino, con la luna nel cielo e la mia ombra vicino, che nel buio ripeteva: fuggi il mondo se vuoi, ma fuggire te stesso certamente non puoi. Ma fuggire te stesso certamente non puoi. Fuggire te stesso certamente